This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. I'll go outside. Benvenuti a tutti, questa è This Is Not An Exit, un'altra serata in compagnia dei nostri mostri settimanali, ma questa sera non sarà un mostro particolarmente orrorifico. Questa sera siete in compagnia, siamo in compagnia di Mark Stewart, e se riusciamo a metterci in contatto con lui magari proveremo anche ad intervistarlo, ma nel frattempo saluto tutti gli ospiti qua in studio, comunque pian piano stanno arrivando la spicciolata. Per intanto il dottor Cortesi che è qua in studio con me. Bella. Poi il dottor Corrias con il suo cagnolino che è qua con noi anche lui, anche il cagnolino. Ciao. E poi il dottor Scarpa che sta arrivando. Comunque, l'idea di questa sera era di fare una puntata su John Spencer. Poi ho visto che veniva il pop group in Italia, qua vicino, al Bronson di Ravenna. Allora ho detto, veniamo di provare ad andarci. Ho chiesto se potevo andare tramite la radio e il dottor Locane mi ha detto, beh, vabbè, ma perché non intervistate Mark Stewart? Io, nonostante la nostra notoria timidezza, ho detto sì. Beh, a voi poi, se riusciremo a contattarlo, giudicare. Per ora ascoltiamocelo in veste solista. God is holy. Father, time to pray. It's not enough. 21 e 25 minuti primi, questo che avete appena ascoltato è Mark Stewart in compagnia dei Mafia. Siamo alla fine del 1987, primi giorni degli anni 1988. Mark Stewart, ex cantante del pop group, il pop group si va indietro, si va a un giovanissimo Mark Stewart, iniziò minorenne il pop group nel 1978 ed esordirono poco dopo, nel 79, con un disco molto importante, si chiama Y, importantissimo perché ridefinì il punk, innestandoci dentro un sacco di funky, in maniera però molto scarnificata e anomala per il periodo. Poi il pop group sopravvisse solo un paio di dischi, e già nell'81 Mark Stewart intraprese una carriera solista, giovanissimo, assieme a musicisti americani che poi lo avrebbero accompagnato per tutta la carriera solista, come anche in questo disco che stiamo ascoltando. Musicisti americani che lui aveva incontrato nelle tournée a New York soprattutto, infatti erano musicisti del New Jersey, molto bravi tecnicamente. E Mark Stewart voleva fare altro, andare oltre il pop group, un gruppo di ragazzi che si conoscevano fin da quando erano 16-17 anni e che avevano imparato a suonare con puro spirito punk, cioè improvvisando e arrangiandosi, mentre in questo disco Mark Stewart è contornato da validissimi musicisti, ma continua con il suo far musica, che è una frizione tra cose abbastanza tribali, primitive, e tantissima tecnologia che man mano lui buttava dentro. Comunque, visto che proveremo a contattarlo telefonicamente, proveremo a raggiungerlo telefonicamente, se avete delle domande da rivolgere a Mark Stewart, 348 76 49 289. Ricordo, 348 76 49 289. Oddio, come sono serio questa sera. Stranger than love. This is Se tra di voi c'è qualche appassionato di musica classica, sicuramente avrà riconosciuto l'inizio e la fine di questo pezzo. Il pezzo si intitola Stranger, ma l'inizio e la coda proviene da una tutt'altra farina, un altro compositore di altri tempi e altre vite, Erik Satie, di cui questo è probabilmente il remix più strano possa esistere. Beh sì, non è che si facessero mancare niente. I Tuckhead o comunque Mark Stewart in compagnia dei Muffy, insomma, erano praticamente un collettivo organizzato, orchestrato da Adrian Sherwood e della sua etichetta On You Sound. La On You Sound era specializzata in dub, ma un dub molto inglese, molto sperimentale. Non era il dub giamaicano. Le basi poi partivano comunque da Bristol, che è la città di Mark Stewart e del pop group agli inizi, di cui, come abbiamo già detto, poi Mark Stewart solista è praticamente l'emanazione del pop group con musicisti che sapessero suonare. A Bristol il funk, il reggae soprattutto, è sempre andato, c'erano diversi club che trasmettevano praticamente soltanto funk, e quindi un genere profondamente nero non stupisce che abbia preso piede, attecchito in Inghilterra, perché comunque c'erano i club e c'erano situazioni che passassero questa roba qui. Oh, State ascoltando This Is Not An Exit su Radio Città del Capo, ma meglio, state ascoltando Mark Stewart and the Mafia. I Mafia erano appunto ottimi musicisti americani, mentre Mark Stewart è di Bristol. In particolare erano Doug Wimbish, poi l'avrete visto forse nei Living Color, grandissimo bassista, Keith LeBlanc alle percussioni e alle tastiere e Skip McDonald alla chitarra. Ripeto, tutti e tre molto molto, come dire, performativi, molto bravi, maestri dei loro strumenti, cosa che, come abbiamo detto prima, non era esattamente nell'etica punk, ma Mark Stewart ha sempre voluto andare oltre, appunto con questo approccio di futuristico, ha sempre cercato di innovare, come un po' a tritacarne, di prendere tutte le cose più nuove, come per esempio l'hip hop, il dub, e mescolarle, mixarle a modo suo. Sì, diciamo che la sua produzione solista è abbastanza discontinua, non tanto in termini di qualità, che rimarrà decisamente costante, quanto in termini di produttività, nel senso che potevano passare diversi anni tra un disco e l'altro, e addirittura tra il disco che ascolteremo tra poco e il successivo edit del 2008 passeranno quasi 10 anni. Questo magari non dipendeva neanche troppo da lui, quanto dagli impegni dei musicisti coinvolti nel suo gruppo, che, come già ricordato, erano impegnati anche in altri progetti, più per denaro che per sfogo artistico, mettiamola così. I Living Color tra gli altri, ma ecco, più appartenenti alla seconda categoria, lo sfogo artistico, c'erano i Little Axe di Skip McDonald, che conobbero un briciolo di fortuna anche dalle nostre parti nella seconda metà degli anni 90, con lunghi tour europei che coinvolgevano ovviamente anche l'Italia. Gli anni 90 invece non furono per niente di successo, di fortunati per Mark Stewart. Passarono tanti anni tra un disco e l'altro, perché negli anni 90 i dischi del pop group erano praticamente introvabili. Non erano ristampati in CD, la ristampa venne, mi sa, nel 2002, e Mark Stewart stesso non ha mai avuto un grandissimo successo. La musica che faceva non era certo orecchiabile, ma negli anni 90 subì un vero e proprio inabissamento. Sì, ci fu una strana eccezione, nel senso che un suo singolo, Consumed, finì in una serie di remix da un'etichetta di cui più volte abbiamo parlato, la Earache, inglese anch'essa, e venne remixato da diversi artisti sia del catalogo Earache, come per esempio Ultraviolence, pessimo produttore Gabber più che altro, ma anche da altri artisti stranieri, tra cui Alec Empire, e finì in un singolo della serie delle Remix Wars, uscì nel 96 per Earache. Ma questo è una strana eccezione, come abbiamo già detto. Fu per lo più silenzio fino al 2008, che fu l'anno del ritorno con Edit. Sacrifice everything. Erano gli anni 90, quello che avete sentito è la versione originale del pezzo Consumed, che si prestava molto bene a remix in versione industrial, quelli di cui abbiamo parlato prima, soprattutto ad opera di Alec Empire, come abbiamo detto, che ai tempi era abbastanza sulla cresta dell'onda. Gli Atari Teenage Riot stavano riscuotendo sempre più successo e anche lui da solista andava forte, un periodo che non si è mai più ripetuto, se non con un veloce ritorno di fiamma nel 2002 con il disco Intelligence and Sacrifice, che folgorò simultaneamente sulla via di Damasco praticamente chiunque, giornalisti, ascoltatori casuali, chiunque. E poi però ritornerà nell'underground, dove bene o male ha sempre operato. Si prestavano bene nei remix perché in gran parte Rod Stewart and the Mafia hanno inventato quello che poi Living Color, Faith No More, Hot Chili Peppers, insomma tanti gruppi americani molto più famosi hanno monetizzato, cioè quello che alla fine degli anni 80 veniva chiamato nelle riviste specializzate crossover. È vero, Rod Stewart ha sempre mescolato di tutto, incrociato, ibridato tantissima musica, e le fusioni metal, funk, hip hop che poi avrebbero avuto successo lui le aveva anticipate, chiaro, in maniera molto più radicale e ovviamente meno ascoltabile. Sì, questa è un po' la sfortuna, diciamo, arrivare molto prima degli altri e molto meglio degli altri. Questo è successo sia con il pop group che nella sua carriera solista. Ma è sempre stato un radicale, poi magari tra qualche minuto, se riusciremo a contattarlo, ce lo dirà lui stesso. Thank you. Ok, dovremmo essere in collegamento con Mark Stewart direttamente da Bristol. Are you there, Mark Stewart? I am here. Oh, thank you very much to be on the air with us at Radio Città del Capo here in Bologna. Welcome back in Bologna. You are very frequently here. I love Bologna. Bologna is my second favorite town after Bristol. Why? It's a beautiful link you have here. You are frequently here, very frequently. And it's strange. When we were very young, we came to Italy with the pop group came to Italy with the Slits, and there was a guy down in Bologna called Red Ronnie who put on these huge, he put on amazing like festivals which were allied to like trade unions and like political demonstrations and stuff. Amazing times in Bologna. I was really, it had such an influence on my outlook. I'd never, that sort of thing wasn't really happening so much in England at the time, but it was brilliant. Sta parlando di Red Ronnie, che è un musicista. Excuse me, Mr. Stewart, and make some translation for our listeners. Of course. Ok, Mark Stewart sta parlando di quando ha questo collegamento virtuoso con Bologna, perché quando era molto molto giovane vennero in concerto con le Slits qua a Bologna e Red Ronnie, ebbene sì, all'epoca aveva organizzato un concerto con i sindacati e fu per lui molto importante. Okay, Mr. Stewart, Red Ronnie was at that time very involved in everything here in Bologna. It was quite famous and it became much more famous through television. But things are changed for us, for everybody. It's 40 years, if I not mistake, but it's 40 years you are on the hitting the ground, hitting the road with pop group, and you are back here in Ravenna next week. What's changed in these 40 years? I don't think anything has changed for me. Theresa May, for example, is just like Margaret Thatcher with designer clothes on. All that's changed really is the haircut. Things are just as heavy. There's hidden agendas. The politics is the similarities between like Ronald Reagan and Donald Trump and Theresa May and Margaret Thatcher, it's the same as it ever was, going back to the medieval times. I don't think, you know, when people say, oh, these are dark days, I remember going to see The Clash when I was young and thinking there was going to be a third world war. You know, constantly there were things going on in the punk days exactly the same as there are now. Okay, Mark Stewart sta dicendo che io gli ho chiesto cosa è cambiato in questi ultimi 40 anni, ci ha risposto dicendo è cambiato il taglio dei capelli, ma per il resto gli sembra che tutto sia rimasto uguale. C'era Ronald Reagan e adesso c'è Donald Trump, c'era Margaret Thatcher, now, adesso c'è Miss May, ma sì, che tra l'altro non ha una conciatura così diversa dalla Thatcher. Quindi, come dire, per lui come se negli anni 80 gli sembrava che potesse scoppiare una terza guerra mondiale da un momento all'altro, beh, insomma, il feeling è più o meno lo stesso. I'd like to ask you about something you said on the documentary, on the on-off documentary. Yeah. The thing you said is what people think is the alternative are a bunch of fakes. Do you want to talk about it? Talking about you guys. Sorry. Yeah, no, except from us. Thank you. But I mean, who do you think is the alternative today, if there is one? No, my what I was saying about the alternative, I was saying that for me, when the problem was being from Bristol, being from a smaller town, I had a very idealistic idea of punk rock. I put too many of my own dreams into what people like Joe Strummer was cool, but I dreamed too much into that story. And sometimes when you meet these people, they're just like heavy rock people. They don't really know anything about what they're talking about. They wear politics like a fashion, you know. Yeah, do you absolutely need to translate that? Yeah. E gli ho chiesto a proposito di una frase che gli ho sentito pronunciare nel documentario girato su lui intitolato On Off, e la frase era: quello che la gente pensa sia l'alternativa sono solo un branco di falsi, di finti. E quindi gli ho chiesto cosa, cioè, se anche ancora adesso la pensi così, lui ha detto che è esattamente così, la situazione è così ora come allora e non è cambiato nulla, giusto? Giusto, giusto. And so my feelings at the moment are that I travel so much around the world and I think there's a huge amount of what I call conscious, like in a kind of reggae style, of conscious people who would like the world to be different, but they don't engage. They don't engage. It's really the greedy kind of right wing people that have the egos that make them engage and try and they want power. The cool conscious people don't roll up their sleeves and engage. Do you understand what I'm saying? Yeah, absolutely. I translate it. Quello che vede girando, viaggiando per il mondo è un sacco di gente consapevole, ma che non si sporca le mani, tra virgolette, nel senso sa perfettamente come stanno andando le cose, ma non agisce, non si alza dal divano, non agisce. Okay. And Mr. Stewart, but do you think 40 years ago there were less people with a consciousness but more people engaged? Yes. I think there was a lot less people. I think that the power of the internet, for example, to be able to do research and compare stories from the right, the left and whatever, I had to come to London on a train and go to an alternative bookshop and go through boxes of books. You know, it was very difficult to find information back in the day. Very, very difficult. But now, if you because for me, finding different information and finding different ideas of like power politics or new forms of economics, I get as excited about ideas and theory as I do about new kinds of music or new kind of art. It feeds me. It's like a nutrient, you know. And with the internet, you can be in a small town outside Ravenna and find out what's happening in South America. Do you understand what I'm saying? And communities are growing in cyberspace, where before there'd be a fanzine for 50 people. Okay, I try to translate. Sta dicendo che gli ho chiesto se secondo lui c'era più gente impegnata ma meno gente informata con una consapevolezza 40 anni fa e lui dice di sì, perché quando aveva 17-18 anni doveva andare a Londra, andare nelle alternative bookshop, nelle librerie alternative e cercarsi informazioni, cercarsi libri alternativi, mentre ora con i mezzi tecnologici, con internet è molto molto più facile, c'è molta gente che trova più facilmente anche in un piccolo paese di provincia informazioni, ma cresce con una consapevolezza che è astratta, è in cyberspace. So you think that cyberspace is a good deal or not? It depends how it's used. I mean, technology can enslave you or technology can enable you. You use a lot but of technology. My father was a kind of crazed scientist, and back in the 1950s him and all his friends, the dreamers, the utopian people, often became scientists and dreamt of the future and seeding the future more than these days artists do it, right? And half of the idea of this honeymoon on Mars is like my father and his friends would read like really cool kind of science fiction books back in the 1950s and early 60s and make that a reality. You know, the science fiction was gave them the ideas to create the future. So maybe your futuristic approach to music came from that. Yes, it's strange. It's quite strange. I mean, and you know, and it's yeah. They were very open-minded. They'd go out on a complete limb and invent something which didn't exist. And I think now it's very important to think, not to be caught too much in now, but to think deep into into the future of the ocean of possibilities of things that could happen, and science is often it's a strange story. Okay, I try to translate. Oh, you and that's the idea of the honeymoon on Mars record, you know. Okay, in fact, I will arrive there. Okay, gli ho chiesto come erano negli anni 50. Lui diceva, parlava del stava spiegando di come suo padre, come la tecnologia, se secondo lui era un buon compromesso, qualcosa di innovativo, di buono, la nuova tecnologia. E lui ha riportato l'esempio di suo padre, che era un inventore, un visionario, che in casa faceva degli studi, delle innovazioni, che aveva preso dai romanzi di fantascienza di Asimov, per esempio, negli anni 50, ma gli sembrava un approccio futuristico possibile, fattibile. Gli sembrava che molte delle cose che leggeva nei romanzi degli anni 50 fossero fattibili, realizzabili, mentre ora questo approccio futuristico, però alla portata di mano, tra parentesi, gli sembra che si sia perso. And so, what does it mean, honeymoon to Mars? On Mars, sorry. It's kind of it's for me it's like it's a story of alienation. It's like when you wake up and you look at your planet, the planet that we're living on, and you're thinking, this is like an alien planet. Who are these people? The planet is being governed by like psychopaths. What are people doing to this planet? You know, you feel it's a story of kind of alienation. It's like I had this vision of like waking up after a party dressed in a wedding dress and walking around, and it was on like Mars. It was like a surrealist vision. Okay, sta dicendo in a white wedding dress with a pair of Dr. Martens. Okay. On Mars, but Mars is on the Earth. Exactly. Okay, sto provando a tradurre. Allora, sto dicendo che il titolo del nuovo album del pop group, uscito da pochi mesi dopo, è già il secondo che fanno dopo la riunione del 2010, insomma, vuol dire che gli sembra di essere su Marte camminando normalmente per le strade di Londra, o comunque stando in Inghilterra, perché gli sembra che il mondo sia governato da un branco di pazzi, e quindi gli sembra di andare in giro vestito da sposa con il Dr. Martens, però in mezzo a persone che non riconosce. But Mr. Stewart, do you think that this phrase that a hip hop group in Italy sang 20 years ago, like I feel like a stranger in my own nation. Exactly. It's my friend from Primal Scream wrote this line saying, I feel like a refugee in my own country. Exactly. Do you think it's a feeling that many people feel, or it's a feeling? Yes, totally. That's what I'm saying. There's loads of people that feel alienated, disconnected, and feel that they it's like there's parallel worlds, and you know, and it's like I'm saying there's parallel worlds of people that see the world in one way, and then there's these other people, but the other people are driven by ego and greed, and that drive is so powerful that they will take everything if the other people don't react. Do you understand? Yes, and they try to translate. Otherwise, again, you get to this situation like in America, yeah, where they're supposedly the Democrats or the liberal, they're standing there and they're tutting. But because they were arguing amongst themselves, the greedy right just come and take everything. Yeah, someone. You know? Someone tells something about you in a U.S. election. We can choose between a supposed liberal party and a proto-fascist one. I don't know if you agree. It's a long story. It's a long story. But all I can say, all I can say is that speaking for myself, I feel a personal responsibility that you have one life, and you should put as much energy into your life for future generations. That cool people who inspired me, from Emma Goldman to Gramsci to Salvador Dali to David Bowie, if they hadn't have rolled up their sleeves and engaged and done something, I wouldn't be who I am. So you have to use your life for something to feed the future, you know? Okay, Max, yes. Max Stewart sta dicendo che è importante usare la vita di ognuno per impegnarsi, come hanno fatto persone che lui stima, David Bowie, Dali, per dirne alcune. So you think that... I think so, because your music, some of your statement, of your phrasing, your songs hit me when I was a kid. And you think that the art is still, again, in 2017, a good form of propaganda, or to vehicle a good message? Yeah, no, I wouldn't say propaganda, but totally. No, propaganda is a bad word, okay? Yeah, totally. It's inspirational. And the thing, and also, I don't think that I'm right. I just throw ideas. I find out something about Palestine. I find out something about Cambodia back in the day. Now I find out something about Yemen, or I find out something about Papua New Guinea, or something about some interesting thing about chaos magic. And it's exciting and interesting to me. I don't say these things are right or wrong, but I throw ideas into the atmosphere, like we throw bass lines or hip-hop drum beats or punk funk or whatever. It's part of the creative thing. It's not preaching, it's creating chaos, you know? Yeah, like the late Bill Hicks once said, you're trying to plant seeds, am I right? Exactly. Okay. Ok, Mark Stewart dice che provare a usare la musica, la forma d'arte come strumento di veicolo è ancora, quello che gli ho chiesto, un buon mezzo per creare caos, per smuovere le coscienze, per far pensare le persone. Non è una propaganda, che ovviamente non è una bella parola, ma come ha detto il dottor Cortese, è un buon modo per piantare semi. Yeah, and talking about the devices, the technology today, how does it affect on your personal creativity? It affects my personal creativity in the basically we have a disrespect for technology, but we keep a bridge of, I mean, most technology comes from military research and development, and the technology we have is like 20 or 30 years behind the military, so imagine what the military must have. But what we do is we abuse technology in the studio, and we plug in machines backwards. It's like if somebody found it when people back engineer a UFO, and take the, you know, we mutate things that aren't supposed to, you know, that aren't supposed to mutate. So we take a bass line from trap music, we take a guitar noise from extreme Japanese noise, and we mix it with a dub reggae beat or something, and then when the engineers in the studio say, oh no, there's a problem, this is a mistake, everything's exploding, we say yes. Okay, I try to translate. We're like children, you know, it's like an alchemist laboratory. Yeah. Gli ho chiesto in che modo la tecnologia di oggi, i device e tutto il resto coinvolgono la sua personale creatività, e lui ha risposto che cerca di utilizzarla come di piegarla a proprio piacimento, perché se si pensa al modo in cui allo scopo in cui è stata creata questa tecnologia, cioè tecnologia militare, almeno 20 anni avanti rispetto a quella che usiamo noi tutti i giorni oggi, è chiaramente una cosa negativa, ma si può utilizzare anche in un contesto creativo, cioè distorcendo linee di basso, campionando pezzi altrui e mettendo tutto quanto insieme. Spesse volte il loro fonico gli dice, ma questo, qui c'è un errore, e loro rispondono, esatto, e da qui andiamo avanti. I think John Cale has just made a performance where he's making a symphony with drones. A symphony with? Drones, you know, drones. Oh yeah. Yeah, drones, yeah. Making different noises and hovering around. Yeah, you mean the, like the military orchestra. The military drones. Yeah. Okay. Not drones, not musical drones, but like hovering drones. Yeah. Ha detto che John Cale ha appena realizzato una sinfonia a base di droni, faceva volare i droni e il suono che producevano era la sinfonia. Diciamo che lo avrebbe fatto se fosse ancora con noi. And do you think that is it a good idea, cioè a good thing that young guys can afford cheap technology to produce? Is it an idea? I think it's punk rock come true. In fact, when we were young, we wanted to be independent and control the means of production, right? But we still had to borrow money and go to studios and even work with independent labels and stuff. But now somebody can make it's completely DIY, you know, completely do it yourself, and there's no censorship, and somebody can make their own music and distribute it themselves, which breaks control. Dice che il fatto che le tecnologie costino poco è un gradino in più rispetto a quello che loro dovevano fare, ma l'approccio rimane lo stesso. Do it yourself, cioè poter avere il controllo sui propri mezzi di produzione consente a tutti di produrre e di poter propagare le loro idee, espressività artistica. But don't you think there is a drawback? So the drawback is there is a sort of noise. Noise, I mean, a lot of people, a lot of production, thousands and thousands of songs produced every day and put on the internet. Aren't they too many? That's not for me to say. But then, yeah, But you have filters. I mean, you have filters like DJs, like radio stations. Yeah, yeah, yeah. But the politics of being able to control, like when we set up our own labels, so people couldn't tell us what to sing or control our songs. Now with X Factor and everything, if people can claim control, it is good. It's democratic. Ok, ha detto, gli ho chiesto se pensava che comunque il fatto che tutti producessero tutto non diventasse una specie di rumore di fondo. Lui dice che sì, è vero, lo capisce, ma comunque siamo d'accordo, ovviamente. Il fatto che tutti possano produrre, tutti possano controllare in toto quello che fanno è comunque una cosa buona, positiva. And I think some of those scenes, you know, I was in Spain when the house scene was kicking off. I remember going to an early like techno club in Chicago. Some of those scenes, the way it gave people energy and pride and it enabled them, are as big as punk. Like, for example, we just worked with Hank Shockley on this record, the Public Enemy producer. And for me, when Public Enemy hit Bristol and hit my black friends and my friends in Bristol, it had as much political impact across the world, Public Enemy, as the Sex Pistols did. So every scene has a story to tell, you know? Sì, ha detto che sì, gli piace questa idea delle tecnologie perché permettono, tra l'altro, di nascere di tante nuove scene, un po' come la house in Spagna, oppure la techno e la house sempre a Chicago, Detroit, oppure anche i Public Enemy stessi che usavano comunque macchine, e produttori come Hank Shockley che hanno utilizzato nel loro ultimo disco, alcuni dei brani del loro ultimo disco sono prodotti da Hank Shockley, che era Bomb Squad, era il produttore dei Public Enemy. And now there's these kind of international scenes. For example, there's an amazing kind of, the scene hasn't really got a name, but it's a kind of like very experimental kind of dancing, and there's amazing stuff coming out. There's a guy that we've just worked with from Italy called Not Waving, right? There's a girl called Lei Lamas from Sicily, and there's these, for me, a lot of the interesting, since the Aphex Twin, a lot of the interesting developments are in that side of the kind of glitchy kind of dance music, Tropic of Cancer, Diagonal Records, you know, that's where the art is more than in bands. Ok, ha detto che vede delle scene interessanti anche oggi, interessanti tanto le scene di un tempo, e molte delle quali in Italia e molte delle quali costituite da one man band, da persone singole piuttosto che da gruppi. So do you think the producers are the future of music or the present of music? Personally, because I am always looking for new sounds. You know, if I was an artist, I'd be looking for new color. If I was a scientist, I'd be looking for new technology. I'm constantly looking for new, weird sounds that I can use in my story, right? And I'm hearing that in this music from Chicago called Footwork. I'm hearing this in like this weird Italian kind of glitchy techno-y stuff like Not Waving. I don't know. I can't predict the future. I'm not Jesus. But I'm just saying what gets me excited in the morning when I eat my cereal. So you are a kind of a vampire in a sort, yes. Of. yes, totally of ideas of new, yeah. You take ideas from others, then mix and them it. Into yeah, a. It's like a collage. Everything I do is like a collage or a cut up, like William Burroughs. Into yeah. a sort I take, of. I take the head of a monster and I put it on a spider's body. Yeah, into a sort of a kind of a giant mental blender. If I'm right. Yeah, like those horror films when there's a spider walking with a doll's head, you know, yeah. Yeah. Mutants, make mutants. And you are doing, you're making that kind of music since the 70s because the approach didn't change. The approach didn't change, but the sounds have changed all it's the time, yeah. A lot. Okay, yeah. Gli abbiamo chiesto, gli ho chiesto se i produttori secondo lui erano il nuovo futuro, il presente. Comunque lui non ha detto: non sono Gesù Cristo, non posso prevedere il futuro, sono semplicemente interessato al future, a quello che di nuovo sta uscendo in tutto il mondo, perché la scena ormai è mondiale, anche in Italia, e cerco di appropriarmi, di farla mia e di usarla come una palette di colori per mescolarla anche in maniera arbitraria e creando anche, mettendo la testa di un cavallo su un corpo di un ragno e viceversa. Another question, what is the current situation with the mafia? The current situation with the mafia is that album, As the Veneer of Democracy Starts to Fade, is being constantly referenced a lot at the moment with the political climate. And There will be more kind of solo activity. So I'm gonna keep both things going, the pop group and the solo things. Ok, gli ho chiesto com'è la situazione con i Mafia, il suo progetto solista, e ha risposto che il primo disco As the Veneer of Democracy Starts to Fade viene costantemente rielaborato, quindi sta cercando di mantenere attive entrambe le propaggini, cioè sia il pop group sia la sua carriera solista. Ok, Mr. Stewart, we appreciate a lot your interview and thank you very much. See you this Wednesday in Ravenna at Bronson Music Club. And fantastic. I hope many of our listeners will be there. It will be a crazy concert. Please come. Okay. No doubt about it. I can imagine. A church of crazy freaks. A church of crazy freaks. Okay. Okay, we'll be there. See you there. Let's party. Okay, thank you very much. Thanks for your time. Cheers. Ciao. Thank you. Up the volume.